Buonasera a tutte e a tutti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio Exalge, benvenuti all'ascolto di Casa da Paes Radio Edit. Come tutti i venerdì su queste frequenze, un'ora di musica che arriva dal jazz è doppiamente inscatolata, prima dentro le pareti rarefatte virtuali di Casa da Paes e poi dentro quelle altrettanto rarefatte virtuali di Radio Exalge. Radio Exalge è comunque contenuta anche fisicamente dentro un luogo fisico che è Exalge a Milano, in via Francesco Ferrucci 5. Adesso per ovvie ragioni non è possibile andarci, ma appena si potrà vi consiglio caldamente di farci un salto. È un progetto coraggiosissimo e che appunto adesso suona nelle nostre case, visto che non possiamo da qui muoverci grazie al potentissimo mezzo che è la radio. In quest'ora si ascolta soprattutto la musica più che le parole, quindi iniziamo subito. Il primo brano che ascoltiamo è un pezzo che apre il secondo disco di Federica Michisanti Horn Trio, una formazione guidata da questa contrabbassista romana a cui si affiancano Francesco Bigoni e Francesco Lento al sassofono e alla tromba. È uscito un disco l'anno scorso che si chiama Jeux de Couleur e... Thank you. least I won't be shot for singing. I'm a free agent. I can protest. This must be freedom. I must be happy. So let London run in prison. Someone should tell him. Because he must realize how he needs us. One with our culture and our charm and our brains. But how could he understand? He didn't have no soul. Abbiamo ascoltato qualche puntata fa i Ghost Horse, che è un sestetto nato da una prima formazione in trio, gli Hobby Horse, di cui abbiamo appena ascoltato Born Again Cretin, un disco da Helm, il loro penultimo CD, il loro penultimo album. E loro sono Dan Kinzelman, Joe Raymer e Stefano Tamburrino, due statunitensi che vivono però a Foligno e un fiorentino. Mentre il prossimo brano è decisamente più mainstream, non abbiamo ancora ascoltato qua Kamasi Washington, che è un sassofonista afroamericano complice di aver riportato un po' in auge un certo tipo di jazz tra nuove generazioni e in generale uditori che si erano un po' allontanati o che non avevano mai davvero ascoltato il genere. Il suo primo disco è diviso in tre volumi, si chiama The Epic, è uscito nel 2015 e questo è il mio brano preferito del disco, Ask Him. Thank you. Dal primo volume di The Epic abbiamo ascoltato Ask Him di Kamasi Washington, mentre torniamo in Italia con un disco che è un lavoro in solo di Gianluca Petrella. Gianluca Petrella è un trombonista, ma negli ultimi anni si è lanciato parecchio nell'elettronica, e questo appunto è un lavoro che gira soprattutto intorno ai sintetizzatori. È un EP di 4 brani che si chiama 103 e noi ascoltiamo proprio la traccia che dà il nome al disco. Thank you. International Anthem è una delle mie etichette preferite per quanto riguarda la produzione del jazz indipendente statunitense. Ha sede a Chicago e di Chicago è Rob Mazurek, trombettista alla guida della Exploding Star Orchestra, di cui abbiamo appena ascoltato Parable of Inclusion, tratto dall'ultimo disco di questo enorme progetto e band. Il disco si chiama Dimensional Stardust. E poi abbiamo sentito un brano di un trio italiano, She's Analog. Loro hanno pubblicato il loro primo disco nel 2020, What I Bring, What I Leave è il titolo del lavoro, pubblicato da Awand, e abbiamo ascoltato Plain Rice. She's Analog è un collettivo formato da Luca Sguera, Stefano Calderano e Giovanni Iacovella. Mentre con immenso piacere che vi introduco a una musicista che amo, come Ben Lamar Gay, anche Jamie Branch è un artista che ascolteremo molto. Il suo primo disco del 2016 si chiama Fly or Die e questa è Team 002. Dopo la mia trombettista del cuore, Jamie Branch, abbiamo ascoltato Alar Vome, tratto da Gold degli Human Field, un quartetto formato da Kurt Rosenwinkel, Andrew D'Angelo, Jim Black e Chris Speed, amici d'infanzia che non si sono persi e continuano a fare ottima musica da quando si sono incontrati all'università ad oggi. E Casa da Pais Radio Edit arriva anche oggi alla sua conclusione. Vi lascio con un brano di un produttore musicista italiano che si fa chiamare Caru. Vi ricordo che se volete mettervi in contatto con me lo potete fare attraverso i canali social di Casa da Pais o scrivendo a casadapais@gmail.com e che sui social trovate anche Exalge se volete chiedere informazioni, se vi incuriosisce il messaggio che vuole portare avanti questo progetto. Non esitate a farlo e nel frattempo ascoltate Radio Exalge. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di serata e a tutti, a presto.